in quanto tale un'opera morale ed è inalienabile, non può essere ceduta a nessuno, quindi c'è un'ampia tutela del diritto d'autore. Il diritto d'autore può essere ceduto nella sua utilizzazione economica ad altri. Il problema è quando non viene ceduto e altri comunque in qualche modo cercano di usurparlo, come diceva lei. E le tutele, riferendosi alla legge, sono appunto quelle di adire sicuramente all'autorità giudiziaria con delle forme di inibitoria, comunque facendo cessare il comportamento fraudolento, che può essere sia in sede civile che in sede penale. Ovviamente. Nell'era digitale si può realmente tutelare la propria la proprietà intellettuale, ecco? Questa è una bella domanda, perché in effetti, infatti, come l'hanno scritto. Sì, come io dicevo, la legge del 41, poi c'è stata ci sono delle leggi che vengono fatte, diciamo, anche successivamente per ampliare questa tutela, però effettivamente in Italia non c'è una legge ad hoc. Facendo una panoramica, possiamo ricordare, passando da casi estremi che sono quelli della Cina, dove lo Stato interviene direttamente, quindi elimina le notizie dal web di qualsiasi tipo, per poi arrivare alla Francia, dove ad esempio quando ci sono questi comportamenti fraudolenti, lì è stata fatta proprio recentemente una legge che effettivamente manda un richiamo email al, diciamo, trasgressore, poi una raccomandata per un distacco dalla rete per 30 giorni. In Italia non c'è, si demanda all'autorità giudiziaria caso per caso, quindi effettivamente, rifacendosi alla legge che ho menzionato prima, che formalmente tutela, poi il problema è di fatto come agire, quindi purtroppo sta a chi è stato in qualche modo defraudato della propria idea o della propria opera a dire l'autorità giudiziaria e cercare una tutela. Ma l'argomento è veramente vastissimo, si potrebbe parlarne per ore. Infatti, va bene, purtroppo il tempo è poco a nostra disposizione. Sì. Nel frattempo io ringrazio l'avvocato Argia Bignami, specializzato in diritto d'autore. Grazie avvocato per il suo intervento, è stato gentilissimo. È stata gentilissima, alla prossima, ci stia bene. Noi torniamo a regalarvi musica. Abbiamo preso questa vecchia canzone del 1978. Quanto tempo è passato! Frankie Valli, colonna sonora di un film molto fortunato che è Grease. History Hit. Sponsored by Colazione 5 Cereali. I buoni cereali per il tuo benessere. Da Cereal Vit.